Durante gli esercizi spirituali in preparazione al sacerdozio, il predicatore ci parlò di alcune difficoltà che avremmo potuto incontrare nella vita pastorale. Una di queste, ci disse, poteva essere il fatto che avremmo potuto incontrare persone con idee diverse dalle nostre. Ma la cosa che ci disse a riguardo mi colpì moltissimo. Ci disse così: se tu incontrerai una persona che la pensa anche in modo molto diverso da te, ma comunque percepisci che ha un profondo senso di chiesa e di fede e una profonda sensibilità educativa, beh, in quel caso considera quell'incontro come un'opportunità incredibile di crescita, sia umana sia pastorale. La cosa mi colpì molto profondamente, anche perché avendo soltanto 24 anni e praticamente nessuna esperienza alle spalle, beh, il mio pensiero era un po' diverso, cioè io sognavo una realtà del tipo: ah, come sarebbe bello se tutti i collaboratori che troverò in parrocchia la pensano esattamente come me. In quel caso potremmo proprio collaborare alla perfezione. Arrivato in parrocchia, tra i tanti educatori dell'Azione Cattolica presenti, ce n'era uno che proveniva da un'esperienza diversa, proveniva dagli scout. Anch'io da ragazzo ero stato nell'Azione Cattolica, per cui avevo una mentalità di un certo tipo. Subito capii che rispetto a quell'educatore avevamo idee molto diverse, ma grazie a Dio mi erano entrate dentro quelle parole del predicatore, per cui subito mi apparve alla mente un pensiero: questa è una grande occasione di crescita e di confronto. Grazie a quel pensiero, il mio atteggiamento nei confronti di questo educatore e delle cose che diceva furono completamente diversi da come mi sarei aspettato fino magari a qualche mese prima. Dietro alle sue idee, anche se erano diverse dalle mie, cercavo sempre di coglierne l'aspetto positivo. Questa cosa fu per me una grande e inaspettata occasione di crescita. Avevamo idee diverse, ci rispettavamo e cercavamo sempre di trovare il modo di fare la cosa giusta per i nostri ragazzi. In famiglia, in azienda, in gruppo, in parrocchia, ci sono persone che hanno idee completamente diverse dalle tue? Considerala come una grandissima occasione di crescita, un'opportunità. La crescita avviene nell'incontro con chi è diverso da noi, con chi ha idee differenti dalle nostre, con chi porta un modo di pensare nuovo con il quale confrontarsi. Se proverai a coltivare in te questo atteggiamento mentale, vedrai come cambierà anche il tuo atteggiamento pratico e la tua comunicazione con chi la pensa diversamente da te. Nel prossimo video vedremo alcuni atteggiamenti concreti e molto semplici per confrontarci nel modo migliore con chi la pensa diversamente da noi. Quindi iscriviti subito al canale per non perdere i prossimi video e condividi questo video con i tuoi amici.